Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che racconta il mondo dal punto di vista di tutti gli animali, con un occhio di riguardo agli animali non umani. Questa settimana parleremo di nuove norme in cantiere riguardanti gli animali domestici, di tartarughe marine, di vittime umane della caccia e di cetacei finalmente liberati. Dedichiamo questa puntata agli storni, uccelli presenti in gran numero nelle nostre città e nelle nostre campagne. In questi giorni, alzando lo sguardo al cielo, capita di frequente di vedere enormi stormi di questi uccelli compiere straordinarie evoluzioni, delle vere opere d'arte per sinuosità, eleganza, leggerezza. Gli storni non hanno una vita facile nella relazione con la società moderna. È una convivenza complicata, al punto che sono considerati degli animali nocivi. Una definizione che riflette categorie utilitaristiche, senza considerare, a nostro avviso, nella dovuta misura, ciò che gli storni in realtà sono: vivaci, chiassosi, creativi esseri viventi, degni di tutto il nostro rispetto e anche a ben vedere della nostra ammirazione per come affrontano l'aggressività degli umani e per la bellezza delle loro esibizioni nel cielo. Patrizia Prestipino e Stefania Pezzopane sono le due parlamentari del Partito Democratico che hanno presentato un disegno di legge destinato a far discutere. La proposta intende modificare il codice civile e introdurre un nuovo libro, quindi una nuova sezione, il 14 bis, intitolato Degli animali. Il primo dei nuovi articoli definisce lo status degli animali stessi come esseri senzienti, riprendendo la famosa quanto inapplicata dichiarazione contenuta nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sottoscritto a Lisbona nel 2007, e secondo il quale l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti. Da questa affermazione di principio discende nel progetto di legge delle due parlamentari una serie di norme, fra le quali una è stata in particolare sottolineata dai media che hanno riferito la notizia. È la norma secondo la quale, nei casi di separazione e divorzio, sarà il giudice a decidere a quale dei coniugi affidare la cura dell'animale domestico che la coppia dovesse detenere. Il tribunale è tenuto ad affidare l'animale domestico in via esclusiva al coniuge che ne garantisce il migliore benessere psicofisico ed etologico. Fermo restando che è possibile, si legge ancora, l'affidamento condiviso. Questa previsione è quella che rende più evidente il cambiamento che le due deputate intendono introdurre nel codice Cani, gatti, conigli o altri animali domestici non sono più considerati degli oggetti, nessuno ne è realmente proprietario, ma sono di fatto equiparati agli altri membri della famiglia. E la loro sorte, in caso di separazione o divorzio, è simile a quella dei figli. Il giudice, cioè, valuta qual è la soluzione migliore e decide, caso per caso. Leggiamo ancora qualche passaggio. La legge, secondo la proposta di Prestipino e Pezzopane, riconosce e tutela il diritto degli animali alla vita, alla salute e a condurre un'esistenza dignitosa e compatibile con le loro caratteristiche etologiche. La proposta di legge poi precisa e disciplina l'accesso degli animali nei locali pubblici o aperti al pubblico. Si legge così: l'accesso degli animali familiari al seguito del proprietario o detentore è sempre consentito nei locali pubblici o privati aperti al pubblico, nonché sui mezzi di trasporto pubblico. L'accesso degli animali, purché accompagnati, è altresì consentito negli uffici pubblici, nelle strutture residenziali, nelle scuole e nei luoghi di culto. È probabile, se non certo, che questa proposta non sia al momento in testa all'agenda politica dell'attuale Parlamento, ma il fatto stesso che sia stata concepita e presentata segnala che stanno maturando avanzamenti normativi in linea con le nuove sensibilità esistenti nella società. È quindi probabile che sentiremo ancora parlare del progetto di legge Prestipino Pezzopane. Walked on and on the sunset, went down and down coldness, cooled their desire and dawn said, let's build a fire. Gli animali domestici a quelli selvatici, con una notizia che arriva dalla Sicilia, dove Sira e Scheggia, due bellissimi esemplari di tartaruga caretta caretta, sono tornate in libertà lungo il litorale di Aspra, frazione marinara di Bagheria, in provincia di Palermo. Le due tartarughe erano state trovate qualche mese fa in difficoltà respiratoria per aver ingerito materiale inquinante e sono state curate all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. Le caretta caretta sono tartarughe diffuse nel Mar Mediterraneo e con aree di nidificazione lungo più settori delle coste italiane, non solo nel sud del paese. Ogni estate avvengono numerose segnalazioni di tartarughe che depongono le uova sotto la sabbia, a volte anche in zone frequentate dai bagnanti. In questi casi, per agevolare la schiusa delle uova e la spettacolare corsa dei neonati verso il mare, è necessario provvedere con interventi specifici di protezione. Vale quindi la pena segnalare Tartalove, la campagna lanciata da Lega Ambiente proprio per finanziare le attività di tutela delle tartarughe marine nel Mediterraneo. Dal monitoraggio dei nidi fino al soccorso e alla cura degli animali feriti. Il contributo minimo richiesto per l'adozione simbolica, spiega Lega Ambiente, è di 20 euro e si tratta di una donazione una tantum, senza richiesta di rinnovo. Chi aderisce, dice ancora Lega Ambiente, riceve un kit di adozione virtuale che include un certificato di adozione, una fotografia della tartaruga è un racconto della sua specifica storia. Torniamo a parlare di caccia per segnalare una notizia riportata dai media bresciani, che riferiscono la storia e l'appello lanciato da Giacomo Gazzoli, uno sfortunato cittadino di 72 anni, abitante a Corteno Golgi, in provincia di Brescia, che 7 mesi fa fu ferito alla schiena da un proiettile vagante mentre, a bordo della sua auto, percorreva la strada comunale che collega Corteno Golgi a Edolo. I medici non hanno lasciato speranza a Gazzoli. Non potrà più tornare a camminare. Passerà il resto della vita in carrozzina. L'uomo ha raccontato così la sua storia. Erano le 15:30 di domenica e io e la mia compagna Agostina avevamo deciso di andare a cenare a Braone, il mio paese d'origine. Già nel piazzale fuori da casa avevamo avvertito il rumore degli spari, come capita spesso da queste parti. È pieno di bracconieri che danno la caccia ai caprioli e ad altri animali selvatici. Siamo saliti comunque in auto e dopo neanche 200 metri, mentre affrontavamo la prima curva, ho sentito un boato all'interno dell'auto, poi un forte bruciore alla schiena. Ho realizzato immediatamente che qualcuno mi aveva sparato, ma non riuscivo a capire come potesse essere accaduto. Per fortuna si è fermata un'altra macchina con a bordo un'infermiera che mi ha prestato i primi soccorsi. Quel boato mi rimbomba ancora nelle orecchie e tutte le notti mi sveglio di soprassalto. E se ci fosse stato qualcuno sul sedile posteriore, probabilmente sarebbe morto. Sembra che Gazzoli sia stato raggiunto da un proiettile di grosso calibro, sparato da qualche centinaio di metri. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, i colpi sarebbero stati sparati per allenamento, mirando a dei cartelli stradali. E l'auto di passaggio sarebbe stata colpita per errore. I tecnici hanno ricostruito l'esatta traiettoria dei proiettili e ci sono anche 2 persone del posto nel registro degli indagati. Ma non ci sono prove certe che siano sufficienti per incolparli. L'appello di Gazzoli è semplice: chi sa qualcosa, parli. Finora non è avvenuto. La drammatica vicenda di Giacomo Gazzoli è una delle tante che ogni anno funestano la stagione di caccia al capitolo Vittime umane, un capitolo sempre molto, troppo lungo. Anche questa settimana Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, si è impegnato nella ricerca di una ricetta collegata alle notizie della puntata. Sentiamo cosa ha ideato questa settimana per il suo spazio etico gastronomico. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. La cocuzzo, bagna bagna sta cocuzza, non bagnare sta cicoria, no! Sembra complicato, ma in realtà il collegamento è molto semplice. Seguitemi con attenzione. L'argomento da cui prendere spunto la ricetta di oggi sono le tartarughe. Bene, a chi è cresciuto negli anni 80, se dici tartarughe, ti risponde ninja. Di cosa vanno ghiotte le 4 simpatiche tartarughe mutanti? Pizza. Ed ecco qua la ricetta per la pizza di scaroli. Gli ingredienti per una teglia da 28 cm sono 500 g di farina tipo 0, 250 ml di acqua, mezzo cucchiaino di sale, 15 g di lievito di birra, 50 g di uetta, 50 g di pinoli, 2 cespi di scarole, 100 g di olive nere di Gaeta, 50 g di olive verdi denocciolate, 30 g di capperi sotto sale, uno spicchio di aglio, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Mangi, uni mami, uni papi, uni mangi you. Uni mami, uni papi, uni mangi you. Fate sciogliere il lievito di birra in 150 g di acqua tiepida con un mezzo cucchiaino di zucchero. Dopo averlo fatto riposare per qualche minuto, impastate con 300 g della farina. Lavorate bene e fate riposare per 30 minuti in un luogo asciutto, coprendo con un canovaccio. A questo punto impastate con la restante farina, un cucchiaio di olio extravergine, l'acqua tiepida e il sale. Se l'impasto dovesse risultare troppo asciutto, aggiungete dell'altra acqua, un cucchiaio alla volta. Impastate bene e lasciate riposare in un luogo asciutto coprendo con un canovaccio. A parte, mettete in bagno l'uvetta e lavate i capperi. Nel frattempo, pulite le scarole, togliendo le foglie esterne e, in caso fosse troppo dura, anche la base. Dopo averle lavate bene, senza farle scolare, fate ammorbidire le foglie in una padella con il coperchio per qualche minuto a fuoco medio e poi scolate il liquido. Sempre in una padella fate rosolare l'aglio con 2 cucchiai di olio. Aggiungete le olive, i capperi, l'uvetta e i pinoli. Fate rosolare qualche minuto e unite le scarole. Coprite e lasciate cuocere ancora 10 minuti. Quando la pasta avrà raddoppiato il suo volume iniziale, dopo circa 2 ore, formate 2 palline. Stendete formando 2 dischi. Con uno foderate una teglia con i bordi abbastanza alti che avrete spennellato con poco olio extravergine. Farcite con le scarole stufate. Bagnate i bordi e sovrapponete l'altro disco di pasta. Premete sui bordi per sigillare la pizza. Se lo gradite potete premere con una forchetta in modo da sigillare con più forza e creare un motivo di decorazione. Lasciate nuovamente riposare per altri 45-60 minuti. Nel frattempo portate il forno a 180 gradi, spennellate la superficie della pizza con olio extravergine di oliva e fate cuocere per 30 minuti circa. Fate raffreddare prima di servire. You gotta run. torna a parlare del cosiddetto benessere animale, cioè delle normative tese a rendere un po' meno insopportabile la reclusione e l'avvio al mattatoio degli animali detti da allevamento. Stavolta sono associazioni come CVF, EMPA, Greenpeace e Lega Ambiente che si rivolgono ai ministri dell'agricoltura e della salute per esprimere, aperte virgolette, estrema preoccupazione, chiuse virgolette, per il progetto di certificazione volontaria nazionale dei prodotti di origine animale. Secondo le associazioni, il progetto dei due ministeri, che dovrebbe indicare ai consumatori in maniera univoca prodotti con caratteristiche superiori alla legge in termini di benessere animale, a oggi sembrerebbe proporre criteri al limite del rispetto della legge o di poco superiore a essa. Dunque, secondo le associazioni, saremmo di fronte a una presa in giro per i consumatori, scrivono. Basti pensare che quello che verrebbe definito benessere animale prevederebbe solo 0,1 metri quadrati in più di spazio per un suino di 170 kg, che avrebbe quindi a disposizione 1,1 metri quadrati, invece che il metro quadrato previsto dalla normativa europea. Inoltre, la certificazione riguarderebbe solo la fase d'ingresso e non comprenderebbe la riproduzione. La certificazione benessere animale, scrivono le associazioni, sarebbe quindi attribuita a prodotti suinicoli provenienti da scrofe allevate in gabbia. La lettera prosegue con altri aspetti giudicati poco convincenti. A nostro avviso si tratta di valutazioni che dovrebbero spingere a una riflessione più approfondita sul concetto stesso di benessere animale, che rischia di essere, anche nella migliore delle ipotesi, un'utilità per le imprese nel loro tentativo di attutire gli scrupoli di coscienza dei consumatori, più che una serie di misure studiate pensando davvero alla dignità degli animali. Thank you. Iniziamo con una notizia che arriva dalla Russia ed è una buona notizia. Abbiamo parlato più volte nei mesi scorsi delle orche e dei beluga rinchiusi nella prigione per cetacei scoperta a Srednaya Bay in Russia. Gli animali erano stati imprigionati nell'attesa di essere venduti a parchi acquatici asiatici, soprattutto cinesi. Dopo la scoperta era partita una campagna internazionale per chiedere la liberazione degli animali. Una campagna sostenuta anche da personaggi del mondo dello spettacolo come Leonardo DiCaprio e dalla vasta eco internazionale, fino ad arrivare, sembra, al Cremlino. La campagna infatti aveva indotto le autorità russe ad aprire un'indagine sul caso e finalmente si è arrivati a stabilire che la detenzione dei cetacei è illegale e così i proprietari delle vasche sono stati obbligati a liberare i prigionieri, che sono tornati in libertà nei giorni scorsi. Sembra che il presidente Putin in persona sia intervenuto per decretare la liberazione. Gli animali trasportati fino al mare e lì liberati erano circa un centinaio, in gran parte beluga, ma con una decina anche di orche. Speriamo che questo caso, con il grande clamore internazionale che ha avuto, segni finalmente una svolta verso la chiusura definitiva di tutti i delfinari e di tutti i parchi acquatici. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. Do you? Do you? These vagabond shoes along the two streets, right through the very heart. Lasciamo con un pensiero che ci sembra attinente ai temi trattati in questa puntata. Gli animali hanno propri diritti e dignità come te stesso. È un ammonimento che suona quasi sovversivo. Facciamoci allora sovversivi contro ignoranza, indifferenza, crudeltà. Marguerite Yourcenar. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Giuseppe Coco, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. Sul nostro sito restiamoanimali.it troverete approfondimenti, notizie e il podcast di questa e delle altre puntate. L'appuntamento per noi è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.